Non c'è problema, fatevi passare naturalmente gli appunti, d'accordo? Però a fine le metto il registratore qua, ok? Sì. Sì. Qualcun altro deve confessare la sua assenza alla prima lezione in modo drammatico? Ah, vengono fuori gli altarini segreti, eh? Diceva signora? Che io sono venuta, però non... o sono venuta troppo presto, o c'erano gli esami. Se è stata settimana scorsa non abbiamo fatto lezione. 15 giorni fa c'eravamo tutti. Loro sono testimoni. Anzi, diciamo che loro sono sopravvissuti alla prima lezione. Prendo i fogli di presenza. Oggi iniziamo ad entrare seriamente nell'argomento. Ho considerato che io sono sempre la più cattiva di tutti, faccio girare i fogli di presenza adesso. Così chi dovesse uscire prima perché ha altre lezioni, altri problemi, lo fa in onore della mia cattiveria. Per cortesia, non datate le firme che mettete oggi. Chi compila il foglio di presenza per la prima volta lo può fare, tutti gli altri non possono, rientra nel Pestalozzi che chi arriva come prima lezione non ha sentito. Le date le metto io, così nessuno può aggiungere firme liberamente in modo estemporaneo, in modo che le presenze siano quelle reali, quelle vere. Non preoccupatevi, le dato sempre. Non mi dimentico, se mi dimentico vuol dire che non ho potuto farlo e comunque ve lo comunico. Per piacere, il corso è il corso al quale voi siete iscritti giuridicamente, pittura, scultura, decorazione, che questo sia il corso di Moderna lo sappiamo. Per cui per favore nel foglio di presenza, i nuovi lo trovano in fondo, è quello al quale siete iscritti, d'accordo? Cos'altro dirvi? Non sono ancora in ordine alfabetico, attendo un altro paio di lezioni in modo che il corso sia stabilizzato, diciamo così. Ci siamo? Nome e cognome, il corso al quale siete iscritti e questo poi sarà il foglio di presenza dove firmerete soltanto, le date poi verranno apposte di volta in volta. Dubbi o problemi? A parte la mia gioia nell'aver visto che qualcuno liberamente si è tolto, diciamo che si è tolto, si è preso, ha voluto togliere, si è divertito a... I fogli su cui i ragazzi del triennio si erano iscritti per sostenere l'esame scritto di storia dell'arte contemporanea. Quelle sono le cose che a me fanno proprio grande piacere. Non solo sono stati tolti quelli, ma qualcuno ha deciso anche di togliere le bibliografie di questo corso, del corso di medievale, dalla porta, sempre con mia somma gioia e massima condivisione. Per cui nel caso aveste notizie o sapeste Che fine hanno fatto questi fogli? Voi non c'entrate, siete del biennio. Ma nel caso vi capitasse così di sentire qualcuno che si vanta di questa azione molto intelligente, invitatelo a rimettere quei fogli dove erano, perché ci ritroviamo nei guai, non sapendo chi può sostenere l'esame e chi no. La bibliografia è già un discorso diverso, scusate, ma ce la facciamo, eccoci. E perché in ogni caso da domani mattina la troverete su Facebook e così nessuno potrà strappare niente, perlomeno dalla mia pagina. Altre cattiverie non ne ho per il momento. Avete domande da fare? Dubbi? Cose che a livello fiammingo vi inquietano? Nessuna inquietudine fiamminga per ora. Per ora. Arriveranno. E saremo qui ad attenderli con gioia. State bene? Vi conoscete tra di voi? Gravissimo. Iniziate a fare amicizia per piacere, perché se c'è una cosa che non sopporto, sappiatelo, è che frequentiate i miei corsi non conoscendovi. Vi sederete uno accanto all'altro per mesi, manco vi chiedete come vi chiamate. Fatelo per piacere, perché è orrendo che non vi conosciate. Ecco, e magari mescolatevi anche, non so, qui abbiamo una splendida fila maschile, bella, monoblocco, solitaria. Ecco, si ricordino gli uomini che possono sedere accanto alle donne in questa parte del mondo, non è vietato. Io capisco il rischio di non seguire più la mia lezione, ma di seguire altro, ma amo correre rischi, se no non farei il docente in accademia. Quindi rischiate di distrarvi sedendovi accanto anche a chi non conoscete, vi prego. Mi sentisse qualcuno direbbe che sono da manicomio, ma ci sta. Noi 15 giorni fa abbiamo fatto, e per noi intendo io con voi, non mi do un plurale maiestatis, sarebbe terribile. Abbiamo fatto un discorso introduttivo generale, cercando un po' di capire quale fosse la situazione. Rassegnatevi, perché per me l'arte nasce sempre in una situazione e quindi ne parleremo sempre delle situazioni che stanno intorno, perché non so se per fortuna o per disgrazia, gli artisti sono sempre stati vivi, prima o poi nella storia, e hanno vissuto in un periodo storico che li ha influenzati, che li ha determinati, che li ha anche resi a volte degli emarginati, perché si sentivano troppo stretti magari nello spazio in cui si trovavano o tra altre situazioni d'arte che non corrispondevano ai loro desideri. Di conseguenza, sapere che cosa avessero intorno, perlomeno secondo me, è vitale. La storia, la filosofia, le altre arti, la pittura, la scultura, ma altrettanto la musica, la danza, la storia del teatro. Perché come voi, spero, facciate ascoltando un telegiornale o leggendo un giornale o guardando i cartelloni pubblicitari, così hanno fatto anche loro, ovviamente con i mezzi e gli strumenti pertinenti all'epoca alla quale sono appartenuti. Non è che, non so, Masaccio fosse un alieno tra noi che abitava dentro il suo studio e dipingeva e mazziava studenti dalla mattina alla sera. Era un uomo del suo tempo, di conseguenza capire anche come vestisse o come mangiasse a volte ci aiuta a comprendere meglio i dipinti, perché sono una parte della sua vita, non solo unicamente la sua pittura. E questo naturalmente vale per Masaccio, ma vale per chiunque altro, ovvero compresi i viventi oggi o artisti di cui noi non conosciamo nemmeno il nome, ma conosciamo le opere famosissime magari. Per cui rassegnatevi a lavorare in questo senso, cioè a lavorare per macchie d'olio, non solo nel senso tecnico, ma proprio a livello culturale, andando a vedere che cosa ci fosse intorno alle opere che ci sono rimaste. E ricordando, soprattutto parlando di quest'epoca artistica, che c'è rimasto pochissimo di quello che effettivamente venne prodotto, per tutta una serie di motivi. Calcolate che noi affrontiamo un periodo storico che va dalla fine, diciamo, del 1300, inizi 1400 e arriverà fino al barocco. Di conseguenza, parlando tra l'altro dell'area geografica delle Fiandre, parliamo di un'area che è stata profondamente messa in difficoltà da tutta una serie di guerre, di battaglie, di scorrerie, di scorribande, e che le opere d'arte, nella migliore delle ipotesi, vennero trafugate, rubate, scambiate come bottino di guerra o come merce di scambio vera e propria. Nella peggiore delle ipotesi invece vennero bruciate, distrutte. Metteteci poi che siamo in un territorio geografico dove la religione è un problema vitale, serio. Essere cattolici o aver scelto di passare al protestantesimo determinerà tutta una serie di situazioni. Le opere d'arte saranno le prime ad essere distrutte, perché simbolo tangibile, visibile di un credo anziché un altro, per tutta una serie di dettagli, di elementi. L'appartenenza ad una congregazione, oggi magari le chiameremo sette, costituì persecuzione razziale. Oltre ad uccidere gli artisti che realizzavano determinate opere, che tutto sommato, no? Lo dico in modo molto egoistico e da storico, pazienza, ma perdere le opere forse fu drammatico tanto quanto perderne l'artista, perché si venne proprio a così scardinare magari il tassello vitale che ci spiega l'unione tra due correnti artistiche o tra due scuole di pensiero, perché magari quell'artista o quel gruppo di artisti facevano parte di una congregazione messa poi all'indice, tacciata di eresia o quant'altro. In più metteteci tutte le varie guerre, tra cui due guerre mondiali. Per cui conservare ancora oggi tavole dell'epoca è miracoloso, ha del miracoloso. Di conseguenza dobbiamo tener conto anche di questo, cioè che quello che noi vediamo è quello che resta e non necessariamente quello che ci è rimasto è il meglio di quanto fosse stato prodotto. Solitamente i grandi capolavori, fin dall'antichità, sono stati più custoditi e più protetti, ma quello che nel 1300 era considerato il pezzo più bello in assoluto, non è detto che oggi, da parte nostra, sia considerato esattamente nello stesso modo. Per cui anche tra quello che ci è rimasto dobbiamo essere critici e saper leggere e sfoltire. Giusto per ricordarvi che non leggeremo solo libri, ma che dovremo sempre pensare e proiettare l'opera di cui parleremo in un contesto. Di cosa parliamo oggi? Che è l'ansia che vedo nei vostri occhi, oltre alla voglia di caffè. Oggi entriamo proprio nel mondo fiammingo. Per chi stesse arrivando soltanto ora, ricordo che faremo anche delle comparazioni con l'arte italiana dell'epoca, considerato appunto tutti gli influssi vicendevoli e le influenze che vi furono. E se siete d'accordo, io partirei parlando di arte fiamminga in generale, prima di entrare nel dettaglio di Hieronymus Bosch, perché altrimenti Bosch ci sembrerebbe un fungo nato all'improvviso dopo una tempesta. In realtà Bosch è retaggio, è memoria di una tradizione di circa un secolo e mezzo prima di lui e molto altro non solo a livello fiammingo, ma proprio diciamo a livello generale, in generale. Per cui vedremo alcune opere dei principali artisti fiamminghi, le compareremo con opere italiane del medesimo periodo e poi entreremo dentro Bosch, in modo da aiutarvi anche a capire perché Bosch abbia fatto determinate scelte anziché altre, piuttosto che partire direttamente con le sue opere e dare per scontato tutta una serie di elementi che solitamente a lezione non si affrontano, proprio perché la pittura fiamminga di solito è un satellite che gravita intorno alle grandi lezioni sul Rinascimento italiano. Quindi rassegnatevi, oggi parleremo di fiamminghi e Fiandre. Abbiamo indicativamente un periodo storico ben preciso in cui questa scuola, chiamiamola così, prende vita, la cosiddetta scuola fiamminga, e noi la guarderemo da italiani questa scuola fiamminga, perché l'Olanda giustamente oggi quando affronta la pittura fiamminga fa tutta una serie di distinzioni, le varie correnti, le varie matrici, le dipendenze politiche, razziali, religiose. Noi lo faremo ma in modo molto superficiale. È un po' come se un olandese studiasse il Rinascimento italiano, no? Noi più siamo entrati nello studio, più abbiamo visto tutta una serie di minuzie, di sfumature, andando a distinguere in modo nettissimo, per esempio, la scuola senese dalla scuola fiorentina, dalla scuola pisana, dalla scuola veneta, dalla scuola milanese. Ovviamente uno straniero non è così, salvo gli addetti ai lavori, non è così attento. Noi faremo più o meno la stessa cosa con la scuola fiamminga, andiamo per sommi capi, è troppo complesso altrimenti. È una scuola in generale che nasce sul finire appunto del 1300. Cosa c'era prima? Perché non è che l'Olanda, il Belgio non esistessero, o meglio i vari ducati che poi daranno vita all'attuale Olanda e all'attuale Belgio. Siamo in un'area geografica dove sostanzialmente l'arte è il gotico internazionale, per cui tavole dipinte a tempera, dove i soggetti principali sono sostanzialmente soggetti sacri, dove si è assistito proprio per tutta una serie di influenze, soprattutto tedesche, alla realizzazione di figure umane rigide, allungate, con dei contorni severi, austeri, nei quali l'arte italiana non si è quasi mai riconosciuta. Ecco, tenete conto per esempio che noi non siamo mai riusciti veramente a appropriarci del gotico. Noi abbiamo una serie di esempi del gotico, ma non ci appartiene proprio. Il gotico è stata la prima grande vera secessione nella storia dell'arte occidentale, la vera rottura con la classicità. Lo sapete, tutta la storia dell'arte occidentale non è stata altro che copiare il classico, tenere il classico come modello o cercare un modo per scalzare il classico. Per cui noi non abbiamo fatto altro e tuttora non facciamo altro che essere classicisti o anticlassicisti. È inevitabile. Il gotico è stato il primo grande elemento per certi aspetti che ha cercato una soluzione nuova, diversa rispetto al classico. Il gotico internazionale ha ridato grande dignità alla scultura che in tutto l'alto medioevo era vietata per motivi teologici, solo Dio poteva lavorare tridimensionalmente, per cui la seconda dimensione apparteneva agli uomini. E di questo chi ha frequentato corsi di medievale dovrebbe averlo ben chiaro. Il gotico internazionale ha anche ridato grande dignità all'architettura e sottolineo ridato, così come il gotico internazionale ha gettato le sementi per il ritorno dello studio della prospettiva. E vi prego, ritorno allo studio della prospettiva, perché Giotto non ha inventato la prospettiva. Questa è una stupidaggine clamorosa. Se Giotto avesse inventato la prospettiva, fino a Giotto tutti sarebbero stati bidimensionali, vero? Nessuno avrebbe mai progettato una città, nessuno avrebbe mai attraversato una strada. L'uomo, in quanto essere umano sulla terra, vive tridimensionalmente, per cui Giotto non l'ha inventata la prospettiva. Giotto l'ha semplicemente riproposta attraverso gli affreschi. Prima di lui, l'arte antica aveva ampiamente frequentato la prospettiva, ampiamente. Chiunque tra voi abbia visto degli affreschi, o meglio degli incausti romani o greci, quel pochissimo che c'è rimasto di greco, ricorderà straordinarie prospettive e tra l'altro incredibili ed elegantissime strutture architettoniche. Penso a Pompei, ma penso anche a Ercolano, ad alcune domus romane a Roma, a Rimini, a Brescia. La prospettiva non era sconosciuta, anzi, Giotto probabilmente studia l'antico e proprio perché studia l'antico, e per antico intendo l'arte romana, ripropone le architetture, soprattutto là dove abbiamo delle certezze, nella Cappella degli Scrovegni. Il gotico internazionale si appropria di questo nuovo modo di guardare al paesaggio e di guardare anche allo spazio che custodisce, che ospita i soggetti, sacri o laici che siano, e rende, diciamo, omaggio alla nascente città moderna, per cui si esce dall'idea di castello e si inizia a sviluppare anche pittoricamente la grande dignità della città, con la piazza, con il palazzo municipale, comunale, con il Duomo. Attraverso la pittura noi comprendiamo il desiderio di un primo vero pensiero omogeneo nei confronti dello spazio urbano. Fino a questo momento ci si era occupati della straordinaria costruzione della cattedrale o del Duomo e non si era avuto un pensiero complessivo rispetto alla città. Sarà il libero comune, successivamente l'avvento delle signorie, a dare questo grande impulso architettonico che i pittori coglieranno immediatamente trasferendolo all'interno dei propri elaborati artistici, eliminando in molte situazioni gli sfondi assolutamente asettici, il fondo oro per esempio, o il blu della notte con il cielo stellato, o i monocromi in verde, in marrone e quant'altro, e cercando di inserire i soggetti in spazi architettonici, con delle prospettive più o meno azzardate, più o meno precise. Siamo ancora in una fase sperimentale di ricerca, di teorie. Siamo tra l'altro in una fase, guardate che questo va proprio ricordato, in cui il manuale di Vitruvio, dedicato all'architettura, il De Architettura, ancora non è stato ritrovato. Non abbiamo ancora tutti i libri, dovremo attendere la seconda parte del 1400 perché questo accada. Per cui manca, diciamo così, un testo, un punto di riferimento scritto per quanto concerne lo studio architettonico dell'antichità, dell'antico. Verrà rinvenuto a Monte Cassino tra i tanti testi antichi, codex antichi, raccolti dai monaci durante varie situazioni, lasciti, bottine di guerra, acquisti e quant'altro. Un'enorme mole di codex non decifrati, non tradotti, ai quali ogni tanto si attingerà, e fortunatamente nella seconda metà del 1400, tra i testi ricopiati, spuntò anche il libro dedicato al De Architettura di Vitruvio, in modo particolare il secondo libro, quello che Vitruvio aveva stilato parlando del teatro. Voi direte, cosa c'entra con tutto ciò? C'entra moltissimo, perché Vitruvio, proprio spiegando le scenografie, le costruzioni prospettiche per le scenografie, ci dà una straordinaria lezione di che cosa fosse per gli antichi la prospettiva, di che tipo di prospettiva si avvalessero per i propri dipinti, perché appunto nell'antico scenografia e pittura sono sorelle gemelle, non che non lo siano poi, ma questa fu una pietra miliare importantissima, il rinvenimento appunto di una pezza giustificativa di un testo scritto sulla prospettiva. Il gotico internazionale poi si era dedicato con grande passione alla sovrapposizione di ruoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gotico internazionale ha abituato il popolo a vedere sovrapposta l'immagine del signore, del principe, del duca con l'immagine cristologica. Maria, in modo particolare, verrà molto spesso vestita con i panni della signora di quella città, della sovrana di quella città o di quel borgo. Gli stessi abiti, gli stessi broccati e soprattutto, proprio con il gotico internazionale, siamo intorno al 1300, noi inizieremo ad avere questo fenomeno bizzarro che non avevamo mai visto prima, delle Marie incoronate. E guardate che questo noi l'abbiamo proprio per una questione di sovrapposizione politica. Questa è pubblicità, proprio allo stato puro del monarca o del signore del luogo. E guardate che non è affatto da escludersi che anche le sembianze di Maria corrispondessero con quelle della domina della città, per cui della signora più importante, o della figlia del sovrano, o della sorella. Tutto dipende sempre dagli equilibri politici. L'artista, ricordatevelo, non è libero quasi in niente. Quasi in niente. A chi lo consiglia, diciamo così? O meglio, a sempre chi gli dice cosa deve fare. E come già dicevamo 15 giorni fa, è quasi sempre l'intellettuale di corte, è l'uomo di lettere, che sia all'interno della corte o che sia in monastero, non cambia nulla. C'è sempre chi suggerisce i soggetti, i colori e soprattutto le gerarchie, le posizioni dei soggetti all'interno del dipinto. Per cui vi prego, l'idea dell'artista, scultore, decoratore, pittore che sia, che si alza e crea di getto, non esiste fino al romanticismo. Scordatevelo proprio, è una, così, è una cosa che è rimasta addosso a noi dal romanticismo in poi. L'artista è un mastro, è un impiegato, è un lavorante, è chi obbedisce a chi gli dice cosa deve fare. Per cui noi dovremmo tenere molto presente questo, perché non c'è grande possibilità di inventive, si è dentro a dei percorsi ben stabiliti, ben coordinati. L'artista al massimo può scegliere se lavorare per l'uno o l'altro signore, e guardate che fa tanta differenza a volte anche a livello tecnico. Cosa hanno di particolare queste Marie coronate? Ne vedremo alcune oggi. Non preoccupatevi, non parlerò soltanto, vedrete anche opere. Beh, hanno il fatto di essere, per quanto concerne la storia dell'oreficeria e la storia del costume, degli esempi straordinari, perché ci fanno proprio vedere l'evoluzione artistica tra il gotico internazionale e quello che poi sarà lo stile, il gusto rinascimentale. E soprattutto, e non dimenticherò mai di farvelo notare, queste Marie coronate ci diranno di quel passaggio epocale nato proprio in seno al gotico nell'Île-de-France dell'importanza del colore blu. Fino all'avvento del gotico, il colore del potere non era mai stato il blu. Anzi, se noi andiamo a leggere per esempio alcuni testi anche di Omero, il blu è un colore che non è nemmeno considerato colore. È il mare, è il cielo, ma non è considerato un colore. Se noi andiamo a vedere anche tutta la storia della tradizione fino a tutto l'alto medioevo, il blu è un colore che determina solo preziosità, ma non determina naturalezza, non è il cielo, non è qualche cosa di codificato quanto può essere il verde dell'erba, per esempio, è proprio un'altra situazione, un altro elemento. Con l'avvento invece del gotico, avendo il casato di Francia assunto per tutta una serie di motivi il blu nello stemma, proprio nello scudo, nell'inquarto che rappresenta il casato dei Capetingi, il blu automaticamente diventerà il colore del potere, il colore del sovrano, al punto che si parlerà di sangue blu per l'aristocrazia. Guardate che fino a quel momento il colore del potere era stato il rosso, ma tra l'altro un rosso particolare, un rosso mattone, non un rosso brillante, la cui origine si perde veramente nella notte dei tempi. È il rosso del porfido egizio. Solo in Egitto esistevano due cave di questo tipo di porfido, di questo tipo di marmo, marmo particolarmente duro, preziosissimo, considerato quasi sacro già dagli egizi, introiettato poi dal mondo romano, passato a Costantinopoli, diventato il colore imperiale proprio dei vari imperatori che si sono succeduti, soprattutto nell'impero romano d'Oriente, e rimasto nell'immaginario visivo, pensate, come colore del potere fino al barocco, più o meno con consapevolezza. Famiglia Medici, che spesso guarderà con grande ammirazione ai principi bizantini, per cui a quello che resta dell'impero romano d'Oriente, adotterà nei propri marmi delle cappelle votive, delle tombe anche, il porfido rosso egizio. Già all'epoca dei Medici le cave estrattive da due erano passate a una soltanto, per cui capite, ancor più prezioso. Il figlio del faraone d'Egitto nasceva in una stanza completamente foderata in porfido rosso. Tutte e sei le superfici della camera dovevano essere in porfido rosso. Le tombe più importanti e anche il sarcofago più prezioso e più sicuro, perché in pietra, era in porfido rosso. Ancora oggi possiamo vedere tutta una serie di tombe, non solo egizie con presenza di questo materiale, ma anche le tombe dei signori normanni, per esempio. Se noi scendiamo a Palermo e vediamo le tombe di Federico II, di Ruggero II, sono in porfido rosso egizio, non a caso, proprio perché è il colore della grande regalità. Potete chiudere per favore, così non siete disturbati, grazie. Certo, anche nel Pantheon, se volete divertirvi. Sì, grazie. Grazie. Anche nel Pantheon, anche alcune tombe in alcune abbazie, anche settecentesche, abbiamo degli esempi di porfido rosso. Tutto dipende dal chi il sovrano, il signore, ha come punto di riferimento, se la Francia o Roma, la Roma antica. E già questo ci dice tantissimo, perché noi ci ritroveremo ad avere Marie che portano un abito rosso o che portano un abito blu. Questo sarà molto significativo. Perché? Perché nella casistica, diciamo così, Maria non può vestire di blu. Perché il blu, dall'Île de France in poi, o meglio, dall'importanza architettonica che si sviluppò con il gotico nell'Île de France in poi, il blu è colore sacro e appartiene a Dio, è il colore del cielo. Quindi Maria dovrebbe vestire di rosso, perché rappresenterà, perlomeno nell'ambito di questo corso, rappresenterà il colore della terra, di ciò che è terreno, di ciò che è fisico, carnale. E di conseguenza, essendo lei madre fisica di Cristo, dovrebbe vestire in rosso. Cristo invece, che ha in sé anche un'entità spirituale, divina, dovrebbe vestire in blu. Solitamente Maria è in rosso con un manto blu e il Cristo invece è in blu con un manto rosso. Là dove avremmo situazioni diverse da questo, dovremmo fare molta attenzione, perché avrà un significato ben preciso. Molto spesso in questo territorio significherà essere protestanti e avere di fronte una committenza, fate attenzione, una committenza protestante, non un artista protestante. L'artista obbedisce a dei canoni che gli vengono dati e quindi non sceglie da solo come vestire Cristo e Maria, gli viene detto. E quindi anche questo dovrà essere un campanello d'allarme molto importante. Le corone poi di queste Marie molto spesso sono le corone vere dei sovrani del luogo, proprio per una situazione, no, molto complessa che è venuta a crearsi tra il potere temporale, politico, civile e il potere spirituale. Chi comanda chi? L'imperatore sul papa o il papa sull'imperatore? Questo non possiamo dimenticarcelo. A seconda di chi si schiererà dalla parte imperiale o dalla parte papale, noi avremo colori molto differenti. Il colore è il primo campanello d'allarme. Le Marie coronate non sono altro che la sovrapposizione dei due poteri, temporale e spirituale, politico e religioso. Inoltre, ci diranno anche del desiderio da parte dei filo imperiali di custodire il sacro, per usare un eufemismo, di decidere i vescovi, di imporre i propri figli cadetti nelle cariche principali all'interno dei monasteri e all'interno delle cattedrali. Voi direte, cosa c'entra con l'arte? Tutto c'entra, perché sono questi i committenti dell'arte, sono loro che pagano, sono loro che commissionano le opere. Di conseguenza è vitale avere una figura anziché un'altra, sapere se è filo imperiale o filo papale, perché cambia completamente la situazione artistica in modo molto importante. Inoltre, a livello geografico, nelle Fiandre, noi vedremo svilupparsi un fenomeno che ai miei occhi è incredibilmente affascinante. Perché? Perché a differenza della penisola italica, chiamiamola così perché non è ancora certo Italia, vero, a fine 1300, abbiamo proprio questo scontro religioso. Abbiamo una serie di spinte ancora da parte degli ariani, abbiamo ancora tutta una serie di presenze legate a una serie di eresie molto forti. Abbiamo ancora tutto il problema dei catari, per esempio. Di conseguenza, le varie confraternite, per cui diciamo i gruppi di preghiera, ecco, chiamiamoli così, ai quali un signore o un alto borghese, un mercante appartengono, sviluppano, si inventano un linguaggio criptico, misterioso, simbolico, perché devono capirsi tra di loro e non farsi capire da tutti gli altri. È pericoloso, è rischioso. In Italia questa esigenza non c'è. Non è così forte, non è così presente. In ogni caso, a prescindere da chi comandi, filo imperiale o filo papale, l'intera penisola italica è cattolica, nel 1300 interamente cattolica. Abbiamo ancora delle comunità molto forti, ebraiche e soprattutto arabe, musulmane, soprattutto nel sud Italia, che sono vitali, importantissime e a livello economico preziosissime. Nessuno si sognerebbe di cacciarli. Sarebbe follia. Di conseguenza, questo territorio, il territorio delle Fiandre, avendo invece proprio in seno al cristianesimo, chiamiamolo così, così non facciamo torto a nessuno, spinte diverse, correnti diverse, vedrà svilupparsi tutta una serie di simboli che sono le vere e proprie chiavi di lettura delle tavole fiamminghe, la maggior parte dei quali noi ancora non conosciamo, per cui molti significati non li abbiamo, abbiamo ipotesi, perché capite bene che è un po' come se avessero sviluppato attraverso l'arte una sorta di linguaggio carbonaro. Quindi solo gli adepti, solo gli appartenenti a quel gruppo sapevano esattamente il significato del coltello piantato nella carta da gioco o il significato della chiave tenuta in mano da un santo, che non sia Giovanni o che non sia Pietro, per cui colui che tiene le chiavi del paradiso, o la presenza di alcune tipologie di fiori, per esempio, tenute in mano a Gesù Bambino o infilati nella corona di Maria, o la presenza di alcuni animali, il cane, l'ermellino, il gatto, il topo, il pappagallo. Alcuni li abbiamo compresi perché abbiamo trovato scritto che cosa significassero. Altri ci sono completamente sconosciuti. Altri ancora, che abbiamo già codificato, il significato dell'arancia, per esempio, non è detto che sia proprio sempre quel significato. Per cui dobbiamo abituarci anche a questo, a procedere per ipotesi e, vi prego, anche a dubitare delle certezze. Perché là dove non vi sia un testo scritto che ci dice che quella cosa è esattamente quel significato, procediamo comunque per ipotesi, anche se abbiamo deciso tutti che l'ermellino rappresenta la lussuria. Ma non è detto, perché ricordatevi che comunque il Papa vestiva d'ermellino, e che le cappe dei sovrani erano in ermellino, così erano tutti libidinosi. Non poteva certo essere vero un'epidemia dilagante di facili costumi. Per cui a seconda del dove, del chi e del come, dovremmo fare appunto molta attenzione, perché lo stesso elemento può avere significati multipli, 9 volte su 10 a noi ignoti. A tal senso ricordate sempre un esempio meraviglioso che fece a Londra qualche anno fa una delle più grandi egittologhe viventi, un inglese appunto, una donna, che disse: chissà quante volte ci siamo ritrovati, e poi torniamo ai fiamminghi, ci siamo ritrovati a considerare Pisolo una divinità. Cosa vuol dire? Lei fece questo esempio dicendo: immaginatevi un cataclisma, no? Immaginatevi il cortile di vostra nonna con le terribili, orribili statue di gesso dipinte dei 7 nani. Cataclisma. Tutto viene sepolto, passano 2000 anni. Arriva un'equipe di archeologi, scava l'intera New York e in tutta New York si imbatte giusto nel cortile di vostra nonna. Che cosa riportano alla luce? Pisolo. Dov'era Pisolo? Giusto sul vialetto tristissimo di piante secche che vostra nonna puntualmente faceva morire. Quella, come per incanto, diventa la via verso il tempio. Alberato. Pisolo è il custode del tempio. E il tempio era, vai a sapere tu, della teiera rimasta unico oggetto integro all'interno della casa di vostra nonna. Quindi la civiltà occidentale del XXI secolo venerava teiere e aveva Pisolo come grande custode. L'archeologia può fare errori di questo tipo. E cosa ci fa pensare che la storia dell'arte non possa fare gli stessi errori sui fiamminghi? Certo, Pisolo noi oggi lo sappiamo riconoscere. Fra 2000 anni forse no. E quindi può essere, certo non sono passati 2000 anni, può essere che il fiore di gelsomino abbia significati completamente diversi da quelli che finora gli storici dell'arte gli hanno attribuito. Il fatto che quel significato sia scritto da uno storico dell'arte non è la legge, è l'opinione di uno storico dell'arte. Siate sempre critici, non fidatevi mai. Perché tutto questo discorso? Perché appunto in molte situazioni dovremmo dirci a vicenda che non sappiamo che cosa significhi quel determinato elemento. In altre situazioni, venendo da una tradizione più antica o essendo proseguita quella tradizione a posteriori, più o meno sappiamo che cosa significherà o che cosa abbia significato. Per cui abbiate, vi prego, dubbi, incertezze, perché sono il sale della ricerca. Se ci fidassimo sempre di quello che è scritto, non studieremo più, o meglio, non cercheremo più nuovi significati. L'arte fiamminga in parte è ancora tutta da scoprire. Il professor Cingolani direbbe che sto creando il mio Martin Mister per appassionarvi all'arte fiamminga. Ma l'arte fiamminga è questo, è soprattutto incertezza, mistero e significati altri. Che ne dicano gli artisti viventi. Alla fine del 1300, in questo contesto artistico e storico, accade la riscoperta della pittura ad olio. Voi direte: come riscoperta? Certo, perché anche nell'antichità le misture a base di olio esistevano, non è che non ci fossero. Gli egizi in primis utilizzarono l'olio di papiro per aggrappante con alcuni pigmenti per ottenere lucentezza, e non solo gli Egizi, anche i Greci conoscevano l'olio come legante. Usiamo la logica, no? Là dove vi sia un determinato materiale utilizzato con grande facilità e in modo multiplo, quel materiale viene sperimentato anche dai pittori, anche dagli artisti. L'olio d'oliva nell'antica Grecia, che serviva per illuminare, per ungere gli atleti, per tenere morbido il cuoio degli scudi, ovviamente venne provato anche come legante per i pigmenti colorati, tanto quanto noi oggi istintivamente utilizziamo l'acqua, perché la usiamo sempre, perché l'abbiamo sempre. Forse per un greco che abitava in alta montagna era più facile avere l'olio che non l'acqua, e quindi perché non provarla con il pigmento colorato? Per cui non è che, come per incanto, la notte del 1420, come vi dicevo la volta scorsa, morirono tutte le galline, sparì la tempera e nacque il colore ad olio, vero? Non è mica andata così. Nel 1420, che è una data che indicativamente ci si dà, vi prego, indicativamente ci si dà per l'avvento, per il ritorno del colore ad olio, è relativa. Diciamo che non vi era l'usanza di utilizzare l'olio per il pigmento colorato nella storia dell'arte che va dall'alto Medioevo al 1400. Non vi era la tradizione, si era persa. Non è improbabile che chi la riprova sia qualcuno che ha letto qualcosa, un codice, un ricettario, che ha visto qualcosa che noi abbiamo perso magari. Ricordatevi che loro avevano molti più reperti archeologici di quanti non ne abbiamo noi. Loro non avevano avuto le bombe ancora, le cose erano crollate, non erano esplose, fino all'avvento appunto delle cariche con la polvere da sparo, per cui diciamo proprio fino al 1300. E soprattutto gli scoppi di guerra, i cannoni, non venivano utilizzati dentro le città, perché si combatteva nei campi, non dentro le città venivano invase, venivano saccheggiate, ma raramente distrutte. Chi conquistava non era scemo, sapeva che gli serviva intera la città per poterla utilizzare e sfruttare, perché non si sarebbe mai messo con i cannoncini, con gli archibugi a sparare dentro la città. Si sparava nella campagna, si sceglieva il campo di battaglia. Prego. Ma allora mi domando, perché ho letto delle cose anche su te. Quando nasce davvero l'olio? Qual è? È un po' come chiedersi quando impugna un pennello per la prima volta l'uomo. Cioè non abbiamo la data, non abbiamo certezze. Io sapevo dal Rinascimento in poi. Vi ripeto, esiste proprio una tradizione antica che si perde nella notte dei tempi, in cui il pigmento viene mescolato all'olio. Non viene considerato però a livello così ufficiale, ma esiste, non è che non esista, anzi, ne abbiamo proprio testimonianza. Ufficialmente, diciamo, convenzionalmente, si decide di farlo nascere nelle Fiandre intorno al 1420. Poi perché proprio il 20 è un bel dubbio, no? Che dovremmo avere tutti. Diciamo fine 1300, inizi 1400. Abbiamo anche un nome al quale gli storici dell'arte così sentimentalmente legano questa tecnica, che è il nome di Van Eyck. Jean Van Eyck. Ma Van Eyck l'ha imparato, pare, da suo fratello, che si chiamava Hubert. Alcuni storici ritengono che Hubert non sia neanche mai esistito, che sia sempre Jean che utilizzi anche un altro nome, o che questo Van Eyck sia un'altra persona. Diciamo che a fine 1300, inizi 1400, abbiamo testimonianza del ripristino della tecnica ad olio. E questo accade nelle Fiandre. così non sbagliamo. E anche qui fate attenzione, soprattutto voi che dipingete, non è la pittura ad olio che possiamo praticare oggi, è una pittura grassa, per cui è ancora una tempera in realtà, che anziché essere diluita con acqua viene diluita con olio, solitamente è olio di lino, per una questione proprio di commerci, erano i più grandi importatori di olio di lino. Qual è la differenza? Le uova, per cui come vedete le galline non possono morire con l'avvento del colore ad olio. Le uova. Uova che do per scontato, tutti sappiate, ma so che così non è, essere fondamentali per la tempera. Il pigmento colorato veniva tenuto insieme quasi sempre dal tuorlo d'uovo. Il tuorlo, non l'albume. Capite quindi con tutta una serie di problemi di viraggio del colore, perché se io metto del blu e lo mescolo con il tuorlo d'uovo che è giallo, ottengo verde, ed è gravissimo nelle Fiandre ottenere verde, è un colore drammatico, non va usato, per cui è complesso fissare il blu, difficilissimo, e chi tra voi si tinga i colori, i capelli di blu ancora oggi, sa quanto sia difficile fermare il pigmento blu, perché non tiene. È volatile, non riusciamo proprio a fissarlo. Se notate, per esempio, anche nella tavolozza di Giotto, il colore che con maggior fatica noi riusciamo a conservare è proprio il blu. Per questo motivo, perché si fa fatica ad ottenerlo e ancor più fatica a conservarlo. Tuorlo d'uovo, terre o pietre dure, più o meno preziose, triturate, con aggiunta di olio di lino, per cui vi ripeto non possiamo proprio considerarlo olio, è ancora un colore grasso, è tempera grassa. Perché? Questo io più che altro mi chiederei, non tanto la notte esatta in cui quest'idea nacque, ma io mi chiederei perché nacque l'esigenza di passare dalla tempera all'olio. Perché, pensateci, non ha senso, no? Tecnicamente, voi che dipingete, non ha senso. La tempera mi si asciuga velocemente, l'olio devo aspettare un sacco perché asciughi. E se io ragiono non a parete, vero? Dove più tempo ho, meglio è. Dove però per secoli va avanti ancora l'utilizzo della tempera, per l'incausto e per l'affresco, sulla tavola io vado a complicarmi la vita, perché più tempo impiega a seccare, più tempo dovrò aspettare per le rifiniture, per i dettagli, per le velature, eccetera. Perché nasce questa tecnica? E qui la spiegazione, secondo me, prendetela come un'opinione personale, per cui assolutamente discutibile, è la religione a determinare questa incredibile meraviglia. Una delle correnti che porteranno in modo molto forte all'avvento del protestantesimo nelle Fiandre, ritiene che la lucentezza sia specchio divino, che la brillantezza sia emanazione divina. Niente quanto il colore a olio è brillante, per l'epoca perlomeno, gli smalti esistono ma non possono certo essere utilizzati su ampie campiture e costano una follia. Inoltre i grandi mastri vetrai sono francesi e se io mi trovo in un territorio fiammingo che è filo tedesco, antifrancese, quegli artisti se li avevo li ho sgozzati. Li ho uccisi, perché erano comunque di un credo, di una bandiera politica diversa, non funzionavano, o se ne sono andati. E in ogni caso io ho necessità di un pigmento colorato, non posso usare sempre il vetro, non posso usare lo smalto appartiene più che altro all'oreficeria. Se ci pensate anche nella tradizione del Rinascimento italiano, io trovo nelle tavole e anche ad affresco, trovo pietre preziose, trovo inserti dorati, argentati, non trovo smalti. Lo smalto deve avere un supporto aureo o argenteo e quindi mi costa 3 volte di più. Non è da escludersi che appunto questo modo di pensare, la presenza di Dio in tutte le cose, per cui rasenta quasi l'animismo, questo modo di pensare, determini la grande fortuna del colore ad olio in quest'area geografica. Oltre al grande così fenomeno della riscoperta della tintura grassa, del colore grasso, noi dobbiamo tener conto anche di un modo completamente diverso rispetto alla nostra tradizione artistica di concepire la prospettiva. Inizieranno, e qui parlo soprattutto di 2 grandi figure, appunto Van Eyck, Jean Van Eyck e Campin o Campin, vi ripeto, che lo si dica alla francese o alla fiamminga, a provare 2 prospettive combinate. Una prospettiva monocentrica, cioè con un unico vero canale di fuga, con un unico cannocchiale prospettico, visto però da 2 punti di vista, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. In questo modo vi faccio vedere. Oh, io non so disegnare, sappiatelo, io sono un teorico, non ho colpe. Noi siamo abituati, anzi verremo abituati, a questa situazione, no? Io ho il mio spazio, lo divido, mi calcolo, già qui ho commesso un errore, mi do uno spazio, un quadrato, e secondo la tradizione che si perde nella notte dei tempi, soprattutto nelle scuole italiane, io gestisco lo spazio dividendolo in 3 parti. Vi risulta? Speriamo di sì. In 3 zone, no? 1, 2 e 3, che ovviamente andrò più o meno a rispettare. Terra, cielo, cielo, terra, terra, cielo, se siamo in esterno. Pavimento, pareti o pavimento, parete. Dipende da come mi muovo. Questa tripartizione sarà anche verticale, siamo occidentali. Per cui l'avrò anche in quest'altro senso. Centrale, che ovviamente porta l'asse di simmetria, costruzione speculare. Noi proprio ce l'abbiamo nel DNA. Ragioniamo così anche a mano libera in campo aperto. Sinistra, destra. Su questa divisione spaziale applico un punto di fuga, solitamente centrale, anzi, centrale sempre, che a seconda di quanto io calcoli la parte piana, partirà da qui uscendo, oppure anche più ampio, non importa, ma partirà da qui oppure da qui. A seconda appunto che io utilizzi 1/3 soltanto per il piano o 2/3. Ci siamo? Cosa sperimentano i fiamminghi che, ora vedrete, ci disorienta? Sperimentano anche questo. Il fatto di tenere magari un solo punto di fuga, ma di vederlo dal basso e anche dall'alto, cioè costruendo un secondo canale prospettico, che è questo, e ponendosi sopra come punto di vista. Cioè questo non è l'ampliamento di questo, è proprio un guardare dall'altra parte. Risultato, noi avremo delle figure che ci sembrano troppo allungate, semplicemente perché io devo immaginare di sezionarle a metà e di guardarle dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso. Questo ci spiazza, il nostro occhio non ci è abituato. Anche qui, da dove arriva questo modo di vedere? Chi lo sa? Forse è un esperimento che arriva dall'Oriente. Ma allora Venezia dovrebbe essere già arrivata, no? Prima delle Fiandre. Potrebbe anche arrivare dall'estremo nord Europa. Forse avrebbe più senso. Noi non abbiamo niente dell'estremo nord Europa. Nulla se non elementi vichinghi. E quindi quasi niente, perché ciò che hanno realizzato con pigmento colorato, che io sappia, non c'è rimasto per nulla. Abbiamo solo appunto legno, ma non con grandi pigmenti, e pietra. Un solo punto di vista, un solo punto prospettico, due punti di vista. Questo mi stravolge completamente la situazione. Altra cosa che si inventano, e questo è Oriente. E lo fanno prima di noi italiani, e per noi italiani intendo prima di Firenze. Più punti di vista. Questo è spiazzante. Perché? Perché io posso aggiungere a questo punto prospettico un altro. Che può uscire dalla tavola. E questo è sconvolgente, perché mi disorienta completamente. Io non ho più una prospettiva monofocale, ma bifocale, o addirittura trifocale. E quando io ho il terzo, il secondo punto di fuga, che va ad intersecarsi con quello centrale, basta, la frittata è fatta. Perché io, fiorentino del 1400, non mi ci ritrovo più. È una cosa che non torna, è una rivoluzione pazzesca. E guardate, la grande rivoluzione non consiste solo nel fatto che ci siano più punti focali. L'enorme rivoluzione sarà il punto di vista dell'osservatore. Nella pittura italiana l'osservatore non esiste. L'opera vive di vita propria, la prospettiva dell'opera è fine all'opera. E io penso a Giotto, per esempio, no? Lo prendiamo come esempio chiave, per Giotto intendo tutto ciò che accadrà 100 anni dopo di lui. Penso a Simone Martini, penso anche a, che so, Gentile da Fabriano, cioè i grandi del gotico internazionale nati e vissuti in Italia. Hanno sempre dato all'opera un'autonomia. Io dipingo ciò che ho disegnato. Ciò che disegno è astratto rispetto a me, rispetto a chi lo guarderà. Io mi preoccupo di dove viene appeso, ma non di chi lo guarda. La scuola fiamminga invece, o gli artisti che poi diventeranno la scuola fiamminga, costruiranno le opere pensando all'osservatore dentro alla tavola, come se l'osservatore fosse un pezzo invisibile dell'opera. Capite che è un modo di concepire la spazialità completamente in modo diverso. E guardate, lo faranno per gradi, vero? Non è che all'improvviso dal nulla compaia una tavola con tre punti focali e il punto di vista dell'osservatore dentro la tavola stessa. Ci si arriverà, impiegheranno un bel po' anche per arrivarci. L'apice di tutto questo sarà Vermeer, quindi parliamo di 150 anni dopo, tempo dopo, tanto, dove il punto di vista è multiplo e interno alla tavola stessa. Questo è difficilissimo. Tecnicamente, credo, solo da teorico, sia molto complicato. Capite che cambiano tutti i parametri, cambiano le dimensioni dei soggetti, cambiano le gerarchie. Cioè, cambia proprio tutto. Diciamo che queste sono le tre grandi differenze sostanziali rispetto al gotico internazionale. L'avvento della pittura grassa, per cui la pittura ad olio, l'utilizzo di più punti di vista e la presenza dell'occhio dell'osservatore pensato dentro l'opera e non fuori dall'opera. Prego. Si può immaginare qualche motivo rispetto al considerare il punto di vista dell'osservatore pensato nel pensiero di quel tempo? Cioè, cosa può essere, si possono fare delle... Allora, se noi andiamo a vedere... Diciamo che siamo in un territorio dove, a differenza dell'Italia, che ha delle zone geografiche particolari, Firenze, Siena, cioè che ha dei grandi centri mercantili, perché di fatto Siena, Firenze, Pisa, Venezia, Palermo sono porti, o perlomeno Firenze non è un porto, ma sono snodi commerciali importantissimi. Abbiamo ancora però un pensiero teocentrico, no? Tanto che appunto i signori si sentiranno quasi in dovere di avere queste sovrapposizioni tra sacro e laico per così ufficializzare la propria importanza. Siamo invece in un territorio dove, soprattutto con l'avvento di Filippo il Buono, un sovrano illuminato che tra l'altro affiderà la gestione di vari ducati, tra cui il ducato di Borgogna, a sovrani che non dico essere laici perché all'epoca era impossibile, ma elastici, ecco, molto tolleranti, si avrà molto probabilmente prima che da noi questo spostamento dell'interesse dal teocentrismo ad un antropocentrismo. E soprattutto l'avvento di una classe mercantile potentissima che si preoccuperà non di governare le città, come invece accadrà in Italia. Medici, straordinari banchieri, grandi mercanti, ma concentreranno la maggior parte dei loro sforzi nel essere padroni di Firenze, signori di Firenze. Noi nelle Fiandre non abbiamo questo fenomeno. Si preoccupano di essere grandi mercanti, i più grandi del mondo, ma non di comandare la città. A loro questo non interessa, è un modo proprio diverso di concepire la politica. E questo molto probabilmente spingerà gli artisti a lavorare per una committenza sempre più laica, sempre più sganciata da tutte quelle dinamiche molto intricate, molto di palazzo, che vedevano in Italia soprattutto e in Francia anche la commistione e anche la compresenza degli stessi casati sia nel mondo ecclesiastico che nel mondo politico. Medici che avranno un papa, per esempio, no? O metteteci tutti gli altri grandi casati romani o toscani, umbri, eccetera. Questo non accade nelle Fiandre. Di conseguenza l'artista lavora per il grande mercante che fa solo il grande mercante, non ha un fratello abate o vescovo, e gli commissiona dei soggetti sacri che sono familiari. Non è improbabile che questo avere l'uomo come centro del pensiero, fra tutto questo marasma religioso che è veramente una cosa terribile in quella zona, porti anche ad una ricerca di grande semplicità da una parte e di grande normalità dall'altra. Ecco che nella normalità io non ho un solo punto di vista, io posso avere più punti di vista. E lavorando su, per assurdo, superfici ridotte, io devo inventarmi delle soluzioni non banali. Se io lavoro sul grande ciclo di affreschi, ho talmente tanto che non devo preoccuparmi di quanti punti di vista do, perché c'è tanto da vedere e io sono distratto da infiniti episodi, non da uno soltanto, no? Se lavoro invece su una tavoletta che è 30x40 e deve essere strepitosa, deve essere indimenticabile perché io mangio grazie alla vendita di quella tavola, devo trovare delle soluzioni diverse e soprattutto da olandese o da fiammingo devo trovare delle soluzioni che già non abbiano gli italiani, perché la presenza di opere d'arte italiane è enorme nelle Fiandre, per cui devo veramente inventarmi qualcosa di nuovo. Pensate quanto erano fortunati loro rispetto a voi, cioè non c'era già stato tutto, no? Per cui c'era ancora spazio per inventare e trovare soluzioni nuove. Per questo vi dico, probabilmente è un'idea, uno spunto che arriva assolutamente non dall'Italia, arriva da Oriente o arriva dall'estremo nord, perché l'Italia invece ha costruito questo tipo di griglia e ancora lo rispetta in modo molto forte, perché la maggior parte dei suoi artisti importanti ancora lavora su dimensioni paurose, i cicli d'affreschi e le grandi pale d'altare. Per cui anche lì io mi preoccupo del punto di vista dell'osservatore, sì, nel senso che so che è in basso rispetto all'affresco o che è in basso rispetto alla pala e quindi ho sempre una prospettiva dal basso verso l'alto, perché altrimenti tutto è distorto e illogico. Ma non ho la necessità di preoccuparmi delle minuzie e dei dettagli. Potrebbe essere questo, vero? Ma potrebbe essere anche tutt'altra motivazione. E quindi gli artisti fiamminghi erano più liberi rispetto agli italiani? Sì, in questo senso sì. Per cui pensate, per assurdo, no? In un marasma religioso pazzesco, con tra l'altro una presenza dal 400 in poi dei monaci domenicani, che furono quanto di peggio si possa immaginare a livello umano, perché furono veramente il braccio armato di Dio. Quello che fecero i domenicani nelle Fiandre non l'ha fatto, credo, nessun altro, come fantasia nelle torture, come anche ostinazione nel rendere pubbliche queste torture, per dimostrare che la fede cattolica era giusta e che il protestantesimo apparteneva al diavolo e che le altre etnie ebraica e musulmana andavano assolutamente bruciate. Furono veramente terribili, cioè quando poi arriveranno i gesuiti sembrerà acqua di colonia rispetto a quello che veramente fecero i domenicani. E guardate, ci sono tra l'altro delle relazioni, dei diari, delle cronache che non si riesce a leggere per intero, tanto sono terribili, insomma, le pene che infliggevano, di cui io cercherò di non parlarvi mai. Di conseguenza, in una situazione così, dove l'inquisizione è inquisizione davvero, dove si muore solo per aver sbagliato colore del cappello o aver messo un cappello al posto di un altro, il cappello è proprio il segno di riconoscimento immediato in questa società, per assurdo chi pratica l'arte è più libero, o meglio ha una committenza più tollerante, perché è ceto mercantile. E ricordatevi sempre che là dove c'è mercato c'è tolleranza, per forza, perché chi vende deve saper vendere a chiunque, non gli importa niente del credo al quale appartiene, l'importante è che paghi. Per cui non è improbabile che questo abbia portato a maggior libertà. Ma vi ripeto, è una situazione così piena di contraddizioni che si fa fatica a avere una sola risposta, sono sempre molte risposte e molti dubbi anche che restano, assolutamente. Entriamo nel dettaglio, perché voi non ne potete più dei discorsi generali. Chi è questo Van Eyck? Dove nasce? Quando nasce? Perché è così importante? Beh, prima di tutto è uno dei primi nomi che noi abbiamo documentati. Già questo dovrebbe dirci di quanto fermento vi fosse all'epoca. Moltissime opere, pochissimi nomi di artisti. Guardate che questo fa proprio parte ancora del mondo medievale, l'idea della bottega, l'idea del non firmare le opere, l'idea che il manufatto artistico sia un oggetto, bello, prezioso, ma pur sempre una cosa. Sappiamo che appunto Jean Van Eyck nasce tra il 1390 e il 1400. Per cui non abbiamo nemmeno la data di nascita esatta. Abbiamo la certezza della sua morte però, muore nel 1441. Ne abbiamo la certezza perché abbiamo il documento della funzione cimiteriale. 1441. Muore nel 41. Sappiamo che nasce nel Ducato di Borgogna . Parte degli storici dicono che abbia un fratello maggiore, Hubert, abbiamo una documentazione reale, proprio scritta, di quando lui nel 1422 inizia a lavorare presso la corte del conte d'Olanda, all'Aia. Oh, guardate che per conte d'Olanda intendo l'Olanda una contea, per cui è un'area geografica, non è uno stato. E siamo appunto nel 1422. Sappiamo che piace moltissimo e che nel 1425 viene chiamato come artista di corte proprio presso la corte di Filippo il Buono di Borgogna. E sappiamo che per conto di questo sovrano illuminato compie, e qui ci ricolleghiamo a quanto dicevamo nella lezione precedente, una serie di viaggi diplomatici. Pensate un po'. Un re manda un pittore come ambasciatore. Addirittura noi sappiamo che proprio Jean Van Eyck nel 1428 a recarsi a Lisbona per il contratto di matrimonio tra Isabella del Portogallo e il Duca di Borgogna. Ci avete idea? Un pittore che va e gestisce il contratto di matrimonio tra sovrani. E altre due cose che sappiamo di lui è che ad un certo punto esce da questa committenza, non dalla committenza, esce da questa corte. Nel 1432 si reca prima a Lille e da Lille poi si sposta definitivamente a Bruges. 1432. Noi abbiamo una serie di opere sue, ovviamente non le vedremo tutte, la maggior parte sono attribuite a . Qui non siamo certi che siano sue. Prego. Mi scusi, mi sono persa tra il matrimonio di Isabella, tra Isabella Tra Isabella di Portogallo e il Duca di Borgogna. Vi ripeto, molte opere gli sono attribuite e quattro di quelle che consideriamo formalmente sue sono datate. Tutte le altre non hanno datazione, per cui proprio navighiamo a vista. Le opere datate con assoluta certezza sono l'Agnello Mistico del 1432, che vedremo, per cui non preoccupatevi di annotare le date correttamente, del 1433 con certezza, o perlomeno con quasi assoluta certezza, si fa risalire l'uomo col turbante rosso, che non è un suo autoritratto, qualcuno dice che è il suo autoritratto, ma non ne siamo così sicuri. E l'anno seguente, 1434, forse l'opera più conosciuta di tutta la produzione artistica di Jean Van Eyck, abbiamo il famoso Ritratto dei coniugi Arnolfini, che solo quello richiederebbe un intero corso. Di lui non sappiamo nient'altro. Siete fortunatissimi, rispetto a Pablo Picasso, ragazzi, è un'inezia. Una delle prime opere, secondo la tradizione appunto ad introdurlo, a istruirlo all'arte pittorica, sarebbe questo fratello maggiore, questo Hubert, che secondo alcuni invece non è suo fratello, ma a noi poca differenza fa. Cosa abbiamo di questo Hubert Van Eyck? Due cose, anche qui siete fortunati, solo due opere. Abbiamo un'opera che sappiamo essere posteriore al 1420, dedicato appunto all'apparizione dell'angelo alle Tre Marie, la domenica di Pasqua, e ve lo faccio vedere, poi ci torniamo. Questo che è veramente interessante, abbiamo due sportelli di una pala d'altare, oggi conservate a New York, che ci danno il giudizio universale. Sono due ante. Non sappiamo assolutamente che cosa fosse contenuto all'interno. Né conosciamo cosa fosse dipinto sul retro di questi due sportelli, nella parte interna. Cos'ha di particolare colui che dovrebbe essere stato il suo maestro? Ha una serie di elementi che appartengono proprio alla pittura dell'epoca nell'area fiamminga e una serie di elementi, questo è interessantissimo, che appartengono alla pittura italiana. Siamo già in presenza di una combinata, diciamo così, tra i due mondi che affronteremo nel corso. E guardate che queste due ante, conservate oggi a New York, sono importanti perché ci introducono ad uno degli argomenti più ricorrenti poi nella pittura di Bosch, il giudizio universale. Io mi scuso con chi ha frequentato un corso con me di medievale, ma il giudizio, volenti o nolenti, è sempre il punto di partenza di situazioni pittoriche come queste. Cos'ha di fiammingo? Certo, assolutamente la costruzione prospettica, e forse nella parte proprio del giudizio, non nella parte dell'inferno, vi aiuta di più capire, perché è chiarissima. Abbiamo una linea di demarcazione centrale, la vedete? E una doppia costruzione. Punto prospettico, punto di vista frontale, più che dall'alto verso il basso, punto di vista dal basso verso l'alto nella parte inferiore. Per cui proprio la tavola è come se fosse tagliata in due parti e costruita con questo doppio modo di guardare. Già questo è spaesante, ma noi continuiamo a guardarlo frontalmente, o meglio io lo vedo frontalmente. Voi siete più aiutati stando seduti, no? Perché la prospettiva che abbiamo nella parte inferiore, diciamo, è più sensata. Cos'ha di italiano, o perlomeno di filo italiano? Il volto di Maria, che ha un volto morbido, rotondo. I capelli ci vengono proprio fatti vedere con grande eleganza e morbidezza. Guardate che tutta questa dolcezza è proprio legata al mondo della pittura toscana. Il Cristo invece conserva tratti nordici, germanici, se volete, per cui un volto portato via, se volete, proprio alla tradizione dell'icona bizantina. Taglio rigoroso, scriminatura al centro, per cui capelli con la riga in mezzo, come diremo volgarmente. Capelli che scendono piatti e che poi si inanellano. Braccia aperte che fanno vedere i fori della crocifissione. E, legato più alla tradizione tedesca che a quella italiana, piedi aperti. Nella nostra iconografia piedi aperti in questo modo non ne abbiamo. Ne abbiamo uno accanto all'altro, ma non in modo così disordinato. Probabilmente fu un modo per evidenziare il fatto che vi fosse il segno appunto della crocifissione, vi fossero i fori. Cos'ha di nuovo questa immagine rispetto alla tradizione gotica o del gotico internazionale? Niente, se non appunto il taglio prospettico. Perché non ha niente? Perché noi abbiamo le schiere celesti sotto il Cristo, e questa è tradizione antichissima, iniziamo ad avere questo tipo di struttura gerarchica già nell'Ottocento, non 1800, vero? 800. È proprio parte dello stilema dell'iconografia legata al giudizio universale. Non è affatto nuovo il Cristo seduto. Guardate che questo non è un Cristo triumphans, come spesso viene chiamato. Cristo triumphans è sempre in piedi, vero? Con gli occhi aperti. Questo di fatto è seduto, è un Cristo in trono. La novità consiste nel fatto che noi qui il trono non riusciamo a vederlo, a meno che non lo immaginiamo di cielo o completamente coperto dal mantello rosso. Nella tradizione iconografica invece, che arriva da tutto il mondo medievale, basso e alto medievale, il trono avrebbe invece un ruolo importante e sarebbe sicuramente un trono gemmato con tutta una sua simbologia, che qui viene azzerata. Per cui voi non avete idea, chiedete a chi ha frequentato dei corsi di medievale, poveretto con me, di quanti significati invece abbia il trono del giudizio nel mondo medievale. Perché c'è tutta una costruzione nella posizione delle gemme, gerarchica, ben definita e chiarissima, che qui viene completamente azzerata, non c'è. Unico gioiello presente è il fermamantello, o fibula se vogliamo usare un termine antico, che il Cristo porta proprio sul petto, laddove secondo anche tutto il mondo medievale risiedeva il cuore, e per tutto il Rinascimento anche. Il centro del petto è dove sta il cuore, ed è un gioiello incredibilmente semplice. In oro, e la pietra centrale con molta più probabilità è cristallo di rocca, non un zaffiro, perché il zaffiro non è pietra così importante nella gerarchia della gemmologia legata al Cristo. Il cristallo di rocca è molto più importante perché è trasparente e ricorda l'acqua dei fiumi della Gerusalemme celeste. credevate voi che dicendo pietra preziosa tutto fosse chiuso? Il cristallo di rocca che qui porta il riflesso del cielo, per cui ha una cangianza azzurrata. Nel mondo, tra l'altro, medievale, noi non avremmo queste aure gialle intorno alle mani del Cristo risorto, giudice per di più, né avremmo luce che sprigiona dai suoi piedi, vero? Sprigionata dai suoi piedi. Un uomo medievale sarebbe inorridito da questa immagine, perché nella concezione medievale il Cristo risorto è infinita luce, non ha parti luminose. Questa è una libera interpretazione, diciamo franco-tedesca. E questo anello di luce che corrisponde all'aureola, per di più è forato, altra cosa che nel mondo medievale non avremmo. Tecnicamente è interessantissimo però, perché ci dà una trasparenza. E tenetela ben presente, perché una delle grandi caratteristiche di tutta la pittura fiamminga saranno i vetri, le trasparenze dei vetri. Qui abbiamo un'aureola pensata proprio come se fosse vetro soffiato con oro zecchino. Gli angeli che volano intorno alla figura del Cristo dovrebbero essere cherubini. Così vuole, vero, proprio la scrittura che ci descrive il Cristo del giudizio universale. Oh, il testo di rimando è l'Apocalisse di Giovanni, vero? Cherubini, questi sono angeli invece. Come posso dirlo con assoluta certezza? Perché i cherubini hanno 4 ali, gli angeli ne hanno 2. Questo è proprio regola. E sono ali che sono già passate per il gotico internazionale. Sono ali multicolore. Gialle, blu, marroni, verde scuro. Siamo già passati per tutta l'influenza del nord Italia, penso soprattutto all'area padovano-milanese, appunto di ali multicolori. Le ali degli angeli sono specchio dell'arcobaleno di Dio. E anche solo sull'arcobaleno potremo aprire un nuovo corso. Perché ricordatevi, l'arcobaleno rappresenta non l'arcobaleno dopo la pioggia, ma l'arcobaleno di fatto in questo contesto storico, in Italia, così come in tutto il resto dell'Europa colta dell'epoca, rappresenta il cosmo, rappresenta il sistema tolemaico, equilibrio di pianeti, equilibrio tra centralità della Terra e rotazione dei cieli. E l'arcobaleno non è multicolor. Là dove persiste una tradizione medievale forte, l'arcobaleno porta 4 colori, mai 7 o 6. 4. Bianco, nero, rosso e giallo. E chi tra voi non è occidentale dovrebbe ricordare che questi sono i colori del teatro orientale. Sono i colori degli 4 elementi, sono i punti cardinali, sono il cosmo. Nel mondo orientale ancora oggi è così. Il nero talvolta poteva essere sostituito dal blu, Per cui pensate quanta importanza davano al blu, praticamente nulla. Come veste il Cristo? E questo è interessantissimo. Il Cristo indossa un enorme manto rosso. Guardate che qui il rosso non è il colore del martirio, eh? L'idea che il rosso sia il colore del martirio arriverà dal barocco in poi. L'idea che sia intriso del sangue della crocifissione. Questo rosso è il rosso della resurrezione. È il ritorno alla vita. È il rosso cinese dell'abito nuziale. È il rosso di Costantinopoli. È il rosso che arriva dal porfido egizio. Rinascita, eterna vita. Come per noi bianco. No, questo è molto più di quello che per noi è il bianco, molto di più. Perché per noi il bianco è candore e purezza. Qui invece si parla proprio di continuità della specie, di ricchezza. È il rosso che ancora oggi rientra nella cultura russa, slava, dove Rus appunto significa infinita bellezza. Da qui Piazza Rossa, per esempio, per cui piazza di infinita bellezza, non rossa, come volgarmente la chiamiamo noi. Maria veste in blu e tra l'altro l'interno di questo manto è di pelliccia, è zibellino probabilmente. Ha una piccola aureola e se notate ha più colori, non ha la trasparenza di quella del Cristo, ha del bianco e dell'azzurro. Guardate che molto probabilmente è proprio il retaggio del concetto dell'arcobaleno medievale. Mano destra sul cuore, mano sinistra sollevata. E guardate che non è un'invocazione, neanche un saluto, vero? È un segno di dolore. La sinistra avrà una valenza quasi sempre negativa, anche in questo periodo. Alla nostra destra, quindi alla sinistra del Cristo risorto, abbiamo Giovanni, l'apostolo. Che qui, proprio seguendo una matrice di gusto tedesco, porta capelli inanellati e molto lunghi. Indossa praticamente un saio, o se preferite una tunica bruna, marrone, indice proprio di sottomissione, e in modo molto ardito uno straordinario manto verde. E qui potremmo aprire un abisso di conversazione, perché è vero, è bizzarro questo verde. Siamo in un'area geografica dove, dicevamo, la tintura del verde è affidata solo... No, la tintura del verde proprio non c'è. La tintura del giallo è affidata agli ebrei. Meglio, è imposta agli ebrei. Il verde è un ibrido, già lo dicevamo nella prima lezione, se non ricordo male, no? È una mescolanza tra un colore vietato, proibito, che rappresenta il tradimento, fin dalla notte dei tempi è il colore giudaico, e il verde non è ottenuto dalla mistura tra giallo e blu, è ottenuto separatamente, perché sarebbe un peccato mortale mescolare due colori. Rientra tra le tante demenzialità di quest'epoca. Mescolare i colori in alcune situazioni è peccato mortale. Ci si deve confessare per questo. E tra l'altro sono colori che uno deve proprio voler fare a tutti i costi, perché non si possono fare neanche per sbaglio. Nel senso che chi si occupa anche di tinture si occupa di un solo colore. Chi tinge di blu tinge solo di blu. E geograficamente nella città è anche posizionato lontano da chi tinge di giallo. Per cui il verde non poteva essere fatto neanche per sbaglio, rovesciando un secchio di blu dentro una vasca gialla, per esempio. Il verde cercavano di ottenerlo attraverso la triturazione di vegetali o attraverso la marciscenza, e quindi è sempre un verde particolare, complesso anche questo da gestire. Perché dico che è bizzarro che Giovanni, tra l'altro l'apostolo prediletto, il più amato, abbia un manto verde? Perché il verde è un colore che si dà ai traditori, quanto il giallo, per cui starebbe bene addosso a Giuda. Ma noi non dobbiamo dimenticare un dettaglio, che Giovanni è pur sempre un ebreo. Perché comunque l'idea di cristianesimo, cattolicesimo ancora non c'è. Lui è un fedelissimo, ma è nato ebreo, è circonciso per forza. Lo era anche Cristo. Di conseguenza potrebbe essere, vero, potrebbe essere questo il motivo che giustifichi questo manto verde. Oh, fate attenzione, questo non significa che nessun sovrano avesse un velluto verde o del broccato verde. Significa che nella simbologia dei colori che vengono attribuiti ad un'opera, il verde ha solitamente questo significato. Ma questo per il fatto, cioè, proprio della questione del blu che viene attribuito a Maria e il giallo che invece è il colore di Giuda? No. Mi sono perso un passaggio, mi sa. No, o forse io non ho finito il discorso sul blu di Maria, che è un colore appunto regale, reale, ecco perché dentro ha probabilmente lo zibellino bianco. Perché è un po' memoria delle Marie coronate, quindi è una sovrana, è signora del cielo. No, il fatto che lui sia in verde ricorda proprio la sua matrice religiosa. È nato ebreo ed è ancora ebreo ed è ai piedi della croce, ma a livello di dimensioni, insieme a Maria, è secondo solo a Cristo. Essendo l'apostolo prediletto, colui al quale Cristo ha affidato proprio sul monte Golgota le sorti della madre, è in un certo senso il custode di Maria stessa. E il verde potrebbe essere solo appunto memoria della sua matrice religiosa di nascita. Potrebbe essere anche tutt'altro, eh? Ma diciamo in linea di massima questo è il significato del verde, e guardate che questo significato al verde lo attribuisce anche Michelangelo. Se noi torniamo a leggerci la Sistina seriamente, ci rendiamo conto che il verde negli abiti viene attribuito quasi sempre, anzi sempre, ad ebrei, giallo e verde. Sì, certo. Prima diceva che è un'usanza comunque nata in Francia. Sì. Quindi il fatto che venga usato anche nelle Fiandre ormai è stato assimilato a livello di simbologia. Non sarà sempre così, però. Dipenderà appunto se siamo nel nord o nel sud, cioè nella parte protestante o nella parte cattolica. Oh, arrivederci. La croce sorretta dagli angeli rientra nell'iconografia canonica della risurrezione. E nell'antica tradizione noi addirittura ci troveremmo luna e sole, giorno e notte, qui non c'è. Qui abbiamo invece, e questa è un po' una novità, abbiamo invece due oggetti che appartennero al martirio della crocifissione, due, più oggetti. Abbiamo la corona di spine retta da un angelo, abbiamo una frusta a coda di gatto, abbiamo la lancia con la quale si trafisse il costato ed è giusto posizionata a destra in concomitanza della ferita. E questo bastone è il famoso bastone con la spugna intrisa di aceto. Per cui abbiamo presenti nel momento della resurrezione quegli oggetti che sono memoria proprio del calvario, diciamo, no? Di questa morte. E a questi aggiungete tutta l'importanza che viene attribuita a piedi e mani forate dai chiodi, per cui è come se avessimo anche i chiodi, che tra l'altro vengono ben evidenziati nella croce alle sue spalle. La schiera dei beati sotto di loro è canonica, vi dicevo, per cui abbiamo apostoli, pie donne. Questi ve li faccio vedere bene perché poi ci serviranno per Bosch. Risorti, per cui questa è umanità risorta, nuda. E ecclesiastici. Anche qui bisognerebbe sapere chi commissionò questa pala d'altare chiusa. Abbiamo ecclesiastici, cardinali, vescovi, papi, il manto rosso è tipico proprio con lo zibellino maculato, l'ermellino maculato, scusate, è proprio tipico dei papi, e abbiamo anche monaci, qui non si fa torto a nessuno, grande equilibrio, abbiamo francescani e domenicani. Acerrimi nemici nella salvazione delle anime, soprattutto in questo territorio. Pazzesco, ci sono tutti. Sì. Guardate che spesso ci sono tutti. Non si sa mai come cambi il vento. E per non sbagliare si mettono tutti. È quando mancano che dobbiamo chiederci perché. Dall'altra parte abbiamo ogni genere di aristocrazia, sovrani immediatamente riconoscibili perché coronati e con abiti sontuosissimi. Notate, papa e re sono vestiti esattamente con gli stessi materiali. La differenza è che il sovrano usa un broccato e ha una foggia diversa del manto. O meglio sarebbe chiamarla sopraveste, perché questo non è un mantello. E più abbiamo tutta la gerarchia. Duchi, principi. E, fate un po' attenzione, non tutti sono cattolici. Questo è di culto ebraico. Come facciamo a saperlo? Dalla barba. Barba divisa in due parti, chiusa in due riccioli, capelli lunghi, scriminati al centro, con la riga in mezzo. Questo è proprio tipico dell'etnia di credo ebraico, della parte della comunità di credo ebraico. E dietro, sicuramente per gli uomini dell'epoca c'erano una serie di volti noti, perché guardate che da Giotto in poi si vanno a raffigurare, e probabilmente anche ben prima di Giotto, chi viene raffigurato esiste, non è fantasia, sono persone vere. Anzi, dal giudizio universale della Cappella degli Scrovegni in poi, gli aristocratici molte volte pagheranno per figurare più o meno vicini dal Cristo in questi grandi, in queste grandi raffigurazioni. Ad accogliere i giusti sono degli angeli con ali multicolori. Che praticamente gestiscono un po' il flusso verso Cristo. Ne abbiamo uno appunto che indica il Cristo risorto e un altro che gestisce appunto l'ingresso, uno alla volta. Questo che vedete, quello praticamente che fa un po' da controcanto all'immagine del Cristo, è l'angelo del paradiso, colui che dalla cacciata di Adamo ed Eva ha controllato le porte del paradiso. È un angelo di morte, la sua spada solitamente è di fuoco. E ha, guardate la meraviglia, l'interno delle ali come se fosse una combinazione di ali di pavone. Porta uno scudo gemmato, fiammingo, da parata. Come faccio a dire che è da parata? Questa forma in campo di battaglia sarebbe del tutto inutile, se non come paramine da mettere in testa, vero? Questa bombatura non serve. È da parata, è di bellezza per gli ingressi delle truppe, degli ufficiali dopo le conquiste. Perché l'interno delle sue ali ricorda le piume di pavone? Perché come chi, poveretto, sta frequentando medievale, saprà, il pavone è uno degli animali cristologici, è uno degli animali regali, ricordano la sovranità proprio nel mondo mediterraneo. La sua matrice si perde nella notte dei tempi e pensate un po', è di derivazione iranica, per cui ben precedente alle civiltà assire. Verrà importato nel mondo cretese nel secondo millennio avanti Cristo e poi entrerà in quella che è la tradizione romana prima e bizantina poi. Ce la fate a seguire la spiegazione anche del secondo pannello o preferite fermarvi? Perché io sto andando a ruote e voi siete morti. Ci fermiamo 10 minuti? Ma perché non avete fatto segnali? Ho solo dovuto vedere una mano che non ce la fa più a scrivere. Allora ci vediamo tra 10 minuti esatti per la mezza, d'accordo? Accanto all'altro. Non c'è sopra, eh? Sono proprio in cima fosse la continuazione dell'angelo e secondo me andrebbero anche invertiti. Poi anche qui sapere. Apriamo anche una finestra che magari la scriviamo. Mm. Non qui. Non ti manca questo. Guarda, io sotto ho messo dei fogli. Ah, ok, perché hai detto che non c'era. No, no, li ho messi sotto alcuni bianchi apposta, perché così chi è arrivato oggi può aggiungersi. Sì, sì, per carità. Mi metti quello al quale tu sei iscritto. Scenografia? Sì. Oh, tu giochi in casa allora, Perché? Perché queste cose di fatto sono tutte scenografia. Grazie. Ma 19 tu? Sì. Come sì, sì, no. Hanno trovato un quadro di Bosch, hanno provato a suonare. Certo. L'ho letto in articolo un articolo di cui parlava di Bosch. Dov'è che hai letto questo articolo? Su internet, ma trovo zapping su vari siti. La tavola l'hanno trovato? Mi ricordo, l'ho visto e l'ho letto proprio di sfuggita perché c'era proprio la... Nella critico delle delizie, proprio nella parte dell'inferno. Sì, perché diceva che era molto molto triste come... Si capisce anche di chi è. Sì, infatti l'hanno provato a suonare molto... cioè, vabbè. Per quello che si sente molto forza. Ultimamente verso che diceva su Bosch. Se lo trovo io. Grazie. Grazie, così poi magari ce lo suoniamo e vediamo anche. Che c'era anche il pezzo di uno strato, ovviamente ha fatto parte di un po' di note, quindi anche. Però. Terminiamo questo e passiamo poi a Vanenco con la Bea. Sì, sono sotto, gli ultimi, sono qui, al gruppi, avete considerato, come con un altro. Sì. Aggiungiamo. Uno o due? Uno. Uno. Non serve, poi io li metterò in ordine alfabetico, così sarà più facile trovarli anche per voi per firmare. Mi dispiace, siamo partiti da una cosa che una persona è molto bella per voi, di farlo sapere. E quindi quello giusto è il secondo. Bene, Sicuramente cattolici. Sei imparato a fare No, è vietato. Queste descrizioni nei miei corsi sono vietate. Rigorosamente. Non si fa. Scordatelo. Io sono riuscita in 6 anni a mangiarne solo 2. Sono stata bravissima. Ma io lo dicevo prima, sono bravissima in Macedonia, io. E lei non ha visto la settimana scorsa le insalate con le arance, non arrivano con tutte queste cose. Si sono invertite le cose perché loro mangiano sanissimo, io invece mangio prima cosa che per loro. McDonald's. Sì, però quella classica. No, più che altro non puoi mangiare uno yogurt e spiegare gli arancini, cioè non lo so. Riprendiamo, ce la fate? Vado a chiudere, così lo dico. No, lascia. Il secondo sportello, che ecco, tenete conto, anche sulla posizione non è che si sia così sicuri che sia questa, avrebbe anche potuto essere invertita, essere il contrario. Il fatto che ci siano delle cerniere o i chiodi delle cerniere non ci aiuta, perché tenete presente che questi erano pannelli doppi, di conseguenza se io ho la cerniera da questa parte, io lo penso, no, che si apre e che si chiude in questo modo, ma se anziché essere la tavola esterna fosse stata la tavola interna, quella cerniera me lo sposta automaticamente dall'altra parte, non mi tornano più conti. Sinceramente è bizzarro che l'inferno sia a destra, o meglio, precorre i tempi perché diventa incredibilmente fiammingo, proprio nel senso pieno del termine. Perché dico che è bizzarro? Perché essendo ante dovrebbero aprirsi e questo inferno dovrebbe sparire, non essere più a vista. Avrebbe molto più senso invece se fosse nella parte interna e aprendosi restasse alla nostra destra. Perché? Perché risulterebbe essere alla sinistra dell'immagine sacra all'interno, e guardate che tutto ciò che è negativo noi lo troveremo sempre a sinistra. Le motivazioni si perdono anche queste nella notte dei tempi, e solo sul fatto di ciò che sta a sinistra potremmo fare più corsi, non un corso soltanto. Partiamo dall'epoca cristiana, che già un po' ci aiuta. Il ladrone che non si pente è il ladrone che sta a sinistra del Cristo. La bocca dell'inferno nelle sacre rappresentazioni è sempre alla sinistra dell'altare maggiore, alla nostra destra entrando e a sinistra dell'altare. Guardate che molto probabilmente, ma anche questa prendetela come una mia idea, la sinistra negativa, da qui più metteteci, no, tutte le punizioni inferte ai bambini mancini che dovevano per forza scrivere con la mano destra, perché la sinistra era la mano del diavolo, così si diceva, no? Probabilmente ha una derivazione legata al teatro greco, perché la porta di sinistra della Schenè, per cui di quella che era la grande struttura palaziale della scenografia fissa nel teatro greco, ha la porta alla nostra destra, per cui alla la sinistra della scena, che tradizionalmente corrispondeva alla porta della sventura. Da lì entravano i cadaveri, per esempio, degli eroi morti. La tragedia greca non ammetteva uccisioni in scena, non sarebbe stato didattico. Chi moriva, moriva dietro la scena e con una macchina scenografica proprio, l'enchiclema, una sorta di pedana girevole, entrava dalla porta di sinistra. Personaggio negativo, cattivo, entrava sempre dalla porta di sinistra. Non è improbabile che il ladrone che non si pente sia alla sinistra del Cristo come memoria di questa antichissima tradizione. Per cui pensate quanto ci portiamo addosso questo elemento, no? Che la sinistra sia la parte negativa, intendo mano sinistra, vero? La politica non c'entra. In virtù di un'usanza che risale sicuramente al V secolo avanti Cristo. Pensate un po'. Ecco che appunto se fosse un pannello interno resterebbe a vista alla nostra destra, alla sinistra del Cristo risorto, e allora avrebbe un motivo d'essere. In Bosch i vari Infermi li troveremo sempre alla nostra destra, perché sono alla sinistra del padre, per cui la parte negativa. I soggetti più amati, i prediletti da Dio, stanno sempre alla sua destra. Da qui tutta una serie di tradizioni anche a tavola, no? Da parte nostra. L'ospite d'onore dovrebbe sedere alla destra del padrone di casa. Com'è quest'inferno? Interessante, perché? Perché ha alcuni elementi che appartengono proprio al gotico. Cos'ha di gotico? Oh, vero, togliamo la banalità del fatto di dire che ciò che è gotico è brutto e negativo e nefando. Ciò che è gotico è solo molto più strutturato. Allora, siamo perfettamente in linea con la tradizione antica per certi aspetti, abbiamo delle novità per altre. Guardate un po', noi abbiamo coloro che risuscitano dai morti, che fuoriescono dalle tombe. Questa è un'iconografia tipicamente gotica. L'abbiamo già vista, l'abbiamo anche in alcune lunette proprio nell'Île-de-France. Si resuscita nudi e si resuscita giovani. Questo mito dell'eterna giovinezza che ci portiamo proprio dalla matrice romana. E ci ritroviamo, guardate, non a caso, a sinistra avere delle anime che risuscitano. Abbiamo anche un monaco, vedete la tonsura, la chierica, per cui i capelli rasati. Questo ci dice che è un monaco. Resuscitano e alcuni sono già nello Stige, sono già nel fiume che conduce all'inferno e sono disperati perché, se notate, hanno le braccia piegate sulla testa, pregano sperando appunto di resuscitare. Visivamente il pannello dovrebbe essere posizionato sotto. Il Cristo, perché ci dà la parte mancante, vedete, dell'angelo. Però le cerniere ci dicono che sono affiancati e qui la memoria ci porta molto indietro nel tempo. Perché? Perché questo modo di impostare la situazione appartiene a delle tavolette e burne, per cui tavolette in avorio del secondo, terzo secolo dopo Cristo, dove l'iconografia era pensata in verticale, ma talvolta veniva proprio spezzata, ed essendo tavolette burne erano sportelli che chiudevano i proclami o i messaggi da portare, chiusi dentro appunto ad una tavola in legno sulla quale era stata fusa della cera e dove si era scritto questo proclama. Immaginatevi proprio due ante in legno rivestite in avorio che proteggono uno strato di cera fuso su una tavoletta di legno. Forse è una delle tradizioni che ci giungono proprio per motivare la chiusura anche della pala d'altare. È un messaggio sacro che va tramandato e quindi va protetto. Ecco il perché degli sportelli. È uno dei tanti motivi degli sportelli. Ma di questo avremo modo di parlare più volte nel corso. Cosa c'è sotto che sono proprio ali di pipistrello, queste due grandi ali dietro allo scheletro che fungono da grotta, da caverna? Vediamolo in piccolo così avete un'idea. Eccolo qui, generale, vedete che sembra proprio una spelonca. Ali di pipistrello che vengono attribuite all'immagine del diavolo proprio dal gotico in poi. Prima dell'avvento del gotico le ali non ci sono, quasi mai. Diventano ali di pipistrello perché il diavolo proprio con l'avvento del gotico diventa signore delle tenebre, signore della notte. È uno scheletro questo diavolo, questo demonio, perché non è risorto. Coloro che risorgono, risorgono in carne ed ossa. Lo dicono proprio le scritture. Il diavolo no. Ricordatevi queste ali, perché queste ali ci ricordano in parte anche le vulve di una conchiglia, le due parti di una cozza, per esempio, che ritroveremo nella Nave dei Folli, una delle prime opere di cui parleremo proprio di Hieronymus Bosch. Perché ha questa posizione? Beh, da una parte perché sta abbracciando tutti i dannati. E i dannati vengono divorati da una serie di animali che appartengono alla notte e al fango. Perché le scritture dicono che quando Lucifero venne cacciato dal paradiso, avendo peccato di arroganza, avendo voluto superare Dio in bellezza e intelligenza, venne cacciato sulla terra con tale violenza da sprofondare sottoterra. Insieme a lui vennero cacciati dal paradiso tutti gli animali striscianti, per cui le lucertole, i vermi, le lumache, i rospi, perché vivono nel fango, i pesci gatto, perché vivono nei fossi fangosi. Quindi la maggior parte degli animali realistici, reali, che vediamo appartengono proprio a quel tipo di animali. Inoltre, noi qui iniziamo a vedere quella che sarà proprio una caratteristica, una peculiarità di Bosch, che appartiene alla notte dei tempi. Abbiamo proprio dedicato un corso anni fa a questi grilli, a questi mostri, rendendoci conto che già esistevano alcune manifestazioni di questi elementi dall'ottavo millennio avanti Cristo. Perdurano probabilmente come elementi scaramantici di porta fortuna, ne parlavamo ieri parlando di Medioevo, e sono degli ibridi, cioè sono animali multipli, mescolanze, esattamente quanto il verde, la mescolanza appartiene al peccato, e quindi anche gli animali ibridi appartengono al peccato e appartengono quindi alla schiera luciferina, appartengono al diavolo. Dio ha creato le cose con chiarezza. Un rospo è un rospo, un uomo è un uomo. Nel momento in cui ho l'ibridazione, io ho un essere in peccato mortale. Da qui l'idea, per esempio, che anche le persone con delle menomazioni andassero nascoste alla società, non messe a vista, perché erano la manifestazione del fatto che quella famiglia non fosse in grazia di Dio e che Dio li avesse puniti con un bimbo malato, con un bimbo menomato. Guardate che questa è una demenzialità che ci portiamo fino ai giorni nostri, vero? Sono colori terrifici di terra, perché ciò che appartiene alla terra e al sottosuolo è del diavolo. Per cui questo inferno sarà marrone, nero e marrone. Oh, sono a testa in giù coloro che entrano nell'inferno, e questa è una presenza interessante. Perché? Perché nella tradizione iconografica medievale si entra all'inferno attraverso una bocca. Solitamente è una bocca di cinghiale o una bocca di lupo. È una bocca con denti aguzzi. Qui siamo già un passo oltre, verso quella che sarà proprio la tipica tradizione legata a Bosch. Questi dannati sono già stati mangiati da Lucifero e Lucifero li sta defecando. In Bosch più volte troveremo diavoli che stanno defecando persone, o Lucifero che li ha già masticati, li ha già ingoiati, e dovendo subire questa condanna per l'eternità continuano ad essere masticati, mangiati, digeriti, espulsi e poi rimangiati, rimasticati, ridigeriti, riespulsi per l'eternità. Sono, se notate, costantemente mangiati da questi mostri, divorati. Serpenti che entrano nelle viscere, bocche al posto dello stomaco di questi mostri che stanno vomitando o stanno mangiando dannati. Mi spiace descrivervi queste cose, ma è così. Spezzati a metà per essere mangiati, perché l'inferno è legato alla bocca, alla masticazione. L'anima, lo accennavamo forse già nella lezione scorsa, lascia il corpo attraverso la bocca, e in epoca quattrocentesca ancora si pensa questo. A livello iconografico anche gli esorcismi, ancora per tutto il 1400, ci fanno vedere il diavolo che lascia il corpo dei posseduti attraverso la bocca. Il diavolo è un essere che non è mai sazio, mangerebbe in continuazione, rappresenta la tracotanza, l'esagerazione, l'ibris, appunto l'antico peccato greco, commesso da coloro che usavano andare contro l'equilibrio della natura. Da qui ibrido, deriva proprio da ibris, andare contro la normalità, la regolarità dettata dalla naturalezza, dalla naturalità. E quindi mangiare, masticare e vomitare rientra proprio nelle mansioni canoniche, diciamo, di un inferno come si deve. È l'inizio di tutto quello che poi vedremo nelle varie situazioni legate proprio all'inferno di Bosch. Perché ho dedicato tutto questo tempo a questo Hubert, che non sappiamo se effettivamente fu fratello o non fratello, maestro sicuramente di Jean Van Eyck? Perché qui abbiamo già tutta una serie di elementi che torneranno con incredibile puntualità in Bosch 100 anni più tardi, 80 anni più tardi. E cosa conosciamo di Jean Van Eyck? Uno dei primi manufatti, uno dei primi elaborati certi attribuiti a Jean Van Eyck è una miniata. Pensate un po' che potreste andare a vedervi dal vivo, perché è custodita qui a Torino, al Museo Civico d'Arte Antica, ma se non ricordo male è stato spostato e appartiene a Palazzo Madama, o meglio è custodito presso Palazzo Madama. È una pagina miniata di un libro delle ore. Cos'è il libro delle ore? Il libro delle ore è un libro di preghiere, non necessariamente per gli ecclesiastici. Il libro delle ore era un dono prezioso che veniva fatto anche alle ragazze di buona famiglia. Viene commissionato per tempo, interamente scritto a mano, ovvero la stampa ancora non c'è, o perlomeno se c'è non appartiene a questo tipo di utenza, che è un'utenza molto elevata, e a seconda di chi sia l'acquirente, questo libro delle ore sarà più o meno decorato, più o meno miniato. Più è ricco il committente, maggiori sono le miniature all'interno. Solitamente le miniate non sono di un unico artista, ma di più artisti. E non necessariamente un libro di preghiere è realizzato interamente nello stesso momento. Talvolta si possono smembrare dei precedenti libri di preghiere e creare dei nuovi centoni, sembrano un po' delle antologie, ecco, per capirci con un termine che forse conoscete meglio. E quindi capite che l'antologia è una selezione tratta da. Immaginate che questa selezione mantenga magari proprio la mano di chi le ha scritte la prima volta. Immaginatevi un'antologia fatta andando a staccare un capitolo da D'Annunzio, un capitolo dalle poesie di Montale, un capitolo preso dai Malavoglia e li mettete insieme, tralasciando la casa editrice, avendo case editrici diverse. Capite che voi avrete un insieme che ai nostri occhi è orrendo, perché ho caratteri di stampa diversi, dimensioni diverse, carte diverse. Alcuni libri delle ore, quelli più economici, o per assurdo quelli più ricchi in assoluto, venivano costruiti così, smembrando vecchi libri, ricucendo nuovi libri. In questo caso non si fece questo tipo di processo, ma si affidarono le miniate a miniaturisti diversi, anche di scuole molto diverse, e molto probabilmente anche con tempi di realizzazione abbastanza differenti tra loro, anche un trentennio. Vi fu poi un'unica mano a decorare le pagine con queste foglie di platano, che probabilmente rientravano nell'inquarto della famiglia nobiliare che aveva commissionato questa raccolta di preghiere. Sappiamo per certo che questa raccolta era dedicata ad una donna giovane. E capite che partire come materiale artistico da una miniatura, per un uomo che è passato alla storia come l'inventore, pensate un po', del colore ad olio, dovrebbe suonare strano. In realtà non lo è proprio per nulla, perché solo un miniaturista poteva amare il colore lucido quanto Van Eyck, e perché solo un miniaturista poteva saper dipingere su dimensioni piccole con una precisione demenziale, tanto è precisa, quanto farà poi Van Eyck nelle proprie tavole. Guardate che la maggior parte di questi artisti, e per artisti intendo proprio la scuola fiamminga, si forma attraverso la miniatura o l'oreficeria. E per oreficeria intendo proprio la cesellatura dell'oro, per cui su superfici piccolissime che richiedono un'infinita precisione. la miniata che gli viene riconosciuta ci dà la nascita di Maria. Non fate confusione, eh? Non è la nascita di Cristo, non è il parto di Maria, è Sant'Anna che partorisce Maria. Come lo sappiamo? Beh, da una serie di assenze. Se anche io non vado a leggermi la didascalia o non vado a leggermi qualcosa, a livello iconografico lo riconosco. Manca Giuseppe. È l'unico elemento che effettivamente manchi rispetto a una natività medievale. Cos'ha di diverso questa natività rispetto a tutte quelle che conosciamo dedicate a Maria o diciamo nel parto di Maria? Una delle novità consiste nell'ambientazione. Noi siamo in una casa borghese. Anche Giotto la fa partorire dentro una casa. Ma non si sognerebbe mai di metterci i cani, altri bambini e tutta una serie di suppellettili che non abbiamo conosciuto finora all'interno della casa di Sant'Anna. E guardate com'è costruito a livello spaziale. Quello che Giotto ci pone in primo piano, in orizzontale, per cui io ce l'ho proprio di fronte, come se fosse un palcoscenico, il letto dove Sant'Anna ha partorito e tiene Maria, mi viene messo di fronte, con un taglio prospettico doppio. Anche qui abbiamo una doppia prospettiva, dal basso verso l'alto, che ci consente di vedere che cosa è posato sopra il tavolo, per esempio, che ci permette di vedere per intero tutta la scena. Io altrimenti vedrei i piedi e la testa di Sant'Anna, no? Non tutto il resto. Mi permette di vedere cosa è custodito dentro la madia, questo è il nome di questa sorta di credenza che si apre dalla parte superiore, nella parte superiore, e con una prospettiva frontale che mi giustifica il baldacchino, per esempio. Se avessimo mantenuto la prospettiva dal basso verso l'alto, io dovrei intravedere la parte superiore del baldacchino, non quella frontale. E mi giustifica anche queste vettovaglie che io vedo proprio frontalmente. Abbiamo tutta una serie, guardate bene, di suppellettili lucide in metallo, in ottone, in peltro. Abituatevi, perché da qui in poi continueremo a vedere vettovaglie lucidissime che brillano, che riflettono luce, proprio per il motivo di cui vi dicevo prima. L'idea che ogni oggetto sia emanazione della perfezione di Dio lo si capisce dalla sua lucentezza. Gli oggetti riflettono luce perché tutto ciò che è stato creato l'ha creato Dio. La caraffa l'ha forgiata l'uomo, ma in origine l'ha creata Dio. E la meraviglia di Dio, il fatto che Dio la consideri cosa buona, dipende dalla sua brillantezza. Inoltre, e considerate che è una miniata, per cui noi stiamo parlando, vero? Di un'immagine che è poco più di 12 cm per 16. Abbiamo già realizzato in modo infinitamente certosino uno sfondamento prospettico sul fondo, lateralmente sulla destra, che fa proprio da contropeso a tutto questo rosso del letto, con un'infilata di porte che ci lasciano intravedere anche tre finestre, perché abbiamo la luce che entra lateralmente e che sfondano in un'altra porta ancora socchiusa. Ci sono due scuri semiaperti e si intravede della luce oltre. È un gioiello inestimabile a livello prospettico, perché pensate, siamo sicuramente agli inizi del 1400, cioè ben prima della traduzione del secondo libro sulla prospettiva di Vitruvio, e abbiamo già l'esigenza o il desiderio di controbilanciare un'enorme massa statica rossa che io ho a sinistra con uno spazio geometricamente della stessa forma, perché è comunque un rettangolo che più o meno corrisponde a un quarto delle dimensioni di tutto questo letto incredibilmente strutturato, che sfonda prospetticamente e che allunga in questo modo, in modo incredibile, la stanza. Io che guardo sono pensato già in parte nella stanza, altrimenti questa esigenza di sfondamento verso l'interno, proprio a cannocchiale, come sarà tipico della prospettiva teatrale da Palladio in poi, se preferite da Scamozzi in poi, che arriva 80 anni dopo, 60 anni dopo, non potrebbe esserci o non avrebbe motivo di esserci. È un modo raffinatissimo per rendere tridimensionale uno spazio, una scatola scenica che già è tridimensionale di per sé. Io non faccio altro che allungare, approfondire, andare a bucare anche la parete di fondo di questa stanza, mantenendo una serie di sproporzioni tipiche del mondo medievale. Sproporzioni volute, non dettate da un'incapacità. Guardate quanto questa donna sia piccola rispetto al tavolo e quanto il cane sia sproporzionato rispetto a questa donna, o quanto eccessivamente enorme sia il letto rispetto alle due donne che vediamo, per cui la Balia e Sant'Anna. Perché dico che sono sproporzioni volute? Perché volutamente si dà un'importanza maggiore a questi elementi rispetto alle figure umane. È retaggio del mondo medievale. Là dove io ho dimensioni diverse, ho importanze diverse. Tanto più grande è una persona, tanto più è importante. Perché a livello intellettuale, a livello religioso, a livello sacrale, è infinitamente grande. E quindi anche fisicamente dovrà risultare sproporzionata. Perché quel tavolo è così grande? Probabilmente perché anticipa, ricorda quello che sarà l'altare. Ricorda un po' un'ara sacrificale. Sant'Anna partorisce Maria perché Maria deve essere madre di Dio. Elemento centrale, cruciale di tutta questa stanza è quel tavolo. A distrarmi è il letto, che serve proprio perché il mio occhio si concentri su ciò che accade dentro a quel letto, sotto quel baldacchino. Ultimo dettaglio da farvi notare, e considerate sono grandi forse mezzo centimetro, forse neanche, un paio di zoccoli tipici proprio dell'area delle Fiandre, con il mezzo tacco e la punta rigida, che troveremo ripetutamente in Bosch e che troveremo anche accanto al letto dei coniugi Arnolfini. Ma di questo parliamo mercoledì prossimo. Per oggi credo sia più che sufficiente. Credo. Sì, sì. Vero? Abbiamo anche un po' sforato? Ci siamo? Avete delle domande da fare? Zoccoli in Bosch o in Ecco? In entrambi. Ah, ok. Ricordatevi di fermarmi dopo un'ora e mezza. fate segnali, perché io vado in autonomia per ore. Allora, prima, appunto, come vi dicevo, di stramazzare a terra, fermatemi, fatemi capire che avete voglia di andare ai servizi o di prendervi un caffè. Sì. Tutto chiaro? Buona settimana a tutti. Certo. Qual è l'evocazione storica?